Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Devo dire che mi sono adattata allo spazio bene e rapidamente, quindi è una cosa che mi ha fatto naturalmente piacere. Riadattarsi alla terra, devo dire, è più difficile, anche proprio a livello di sensazione fisica, no? Abituarsi alla leggerezza dello spazio è molto facile, riabituarsi alla pesantezza della terra richiede un pochino più di tempo e di sforzo. Samantha, Astro Samantha, beata te, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, che ti sei potuta distrarre un po' dalla pesantezza della Terra per un po' di tempo, con questa leggerezza di mesi nello spazio. Invece qui siamo con i piedi per terra e quindi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dobbiamo stare sulle notizie pesanti e non solo, naturalmente vi racconto un po' di tutto, però sicuramente questo rapimento di 4 italiani in Libia è una notizia che ci appesantisce e ancora non si fanno delle ipotesi attendibili per il momento. Tra poco ne parleremo e poi approfondiremo anche con un esperto di Libia e di questioni internazionali. Parleremo anche questa proposta di Renzi, anzi su questa cosa vorrei proprio sentire il vostro parere attraverso i due canali con cui potete intervenire qui in diretta Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure i messaggi al 349-238-6666. Sapete che Renzi ha promesso il taglio delle tasse, ha annunciato che per il 2016 leverà la TASI, la tassa sulla prima casa. Non vi ricorda niente questa cosa? E poi ci sono le risorse, in che modo lo si potrà fare, ricadrà sui comuni, insomma anche questa cosa analizzeremo con un esponente importante del governo Renzi per capire insomma se è una cosa fattibile, a qualcuno ricorda, se, diciamo, una trovata di berlusconiana memoria, però vediamo se effettivamente è una cosa concretizzabile. Voi che cosa ne pensate di questo taglio alle tasse annunciato da Renzi e soprattutto di levare la tassa sulla prima casa? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Ci occuperemo anche della scomparsa di un grande stilista anticonformista, sicuramente pop, come Elio Fiorucci, che è morto a 80 anni nella sua casa. Insomma, come sempre, tantissime notizie, tanto per ricominciare la settimana. Mentre voi fate le vostre riflessioni, io come al solito all'inizio vi riassumo la giornata. Libia, rapiti 4 italiani a Melita. Per il ministro Gentiloni al momento è difficile fare ipotesi. Migranti, accordo raggiunto dall'Unione Europea sulla redistribuzione da Italia e Grecia, ma è al ribasso. Immigrazione, Renzi chiede al ministro Alfano la sostituzione del prefetto di Treviso per la gestione dell'emergenza profughi. Grecia tenere in borsa BCE, Fondo Monetario Internazionale, con i soldi ricevuti dall'Unione Europea, e riapre le banche. Caos, IVA e aumento prezzi, si temono nuovi scontri nel paese. Tasse, caccia le risorse per il taglio, in particolare di quelle sulla casa, con abolizione TASI sulla prima abitazione, 180 euro in più in tasca agli italiani. Rapporti Stati Uniti e Cuba, inizia la nuova era, aperte le ambasciate. Moda, addio a Elio Fiorucci, lo stilista che rivoluzionò la moda borghese. Calcio, banconote false contro Blatter, che non si ricandida per la presidenza della FIFA. La sentenza della Cassazione, per il cambio di sesso all'anagrafe non serve l'intervento chirurgico. Intanto la Nuova Zelanda adotta la terza categoria gender diverse. Ciclismo, la sesta tappa del Tour la vince lo spagnolo Rubén Plaza Molina. Sagan ancora terzo, secondo. E partiamo quindi dal rapimento di 4 tecnici italiani in Libia che sono dipendenti di una società di costruzioni. Siamo naturalmente innanzitutto impegnati a intervenire per cercare di trovare le persone rapite e risolvere il problema. Come spiega il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, l'unità di crisi della Farnesina sta lavorando con urgenza e con l'intelligence dopo il rapimento ieri di 4 nostri connazionali in Libia. Si tratta di 4 tecnici dipendenti della società Bonatti, che si occupa di impianti per l'industria dell'energia. Non sono per ora stati diffusi i nomi. Il rapimento è avvenuto nei pressi di Mellita, a 50 km dal confine tunisino, dove c'è la sede della stazione di compressione del gas libico, da dove parte Greenstream, il più grande metanodotto sottomarino nel Mediterraneo, gestito per 3/4 dall'Eni e per 1/4 dalla NOC. È al momento difficile fare ipotesi sugli autori del rapimento, afferma il ministro Gentiloni, secondo il quale tuttavia non si tratta di una ritorsione contro l'Italia per il suo appoggio in sede ONU al governo attualmente in formazione nel paese africano. Dopo la chiusura dell'ambasciata d'Italia in Libia il 15 febbraio scorso, la Farnesina aveva invitato tutti i connazionali a lasciare il paese. Io confermo, come purtroppo dimostra il fatto di ieri, che è pericoloso restare in quel paese, ma dire questo non diminuisce in nulla l'assoluto impegno dello Stato per venire in soccorso a questi nostri quattro connazionali, ci mancherebbe. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di immigrazione, perché al vertice dell'Unione Europea di Bruxelles si è trovato un accordo sulla redistribuzione dei migranti, ma il numero fissato sarebbe a ribasso. Dall'Italia e dalla Grecia saranno redistribuiti negli altri paesi europei infatti 35.000 migranti, non 40.000 come era invece nel primo piano dell'Unione Europea. E poi c'è il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos, che si dice deluso, dice questo comunque è un primo passo e poi dovrebbero rincontrarsi i ministri degli esteri tra 6 mesi. Poi faremo un'analisi anche di questo accordo. Intanto si apprende che il presidente del Consiglio Renzi avrebbe chiesto al ministro Angelino Alfano, nel corso di un colloquio oggi a Palazzo Chigi, la sostituzione del prefetto di Treviso. Vi ricordate gli scontri di questi giorni con i profughi che dovevano essere collocati in una palazzina? Per appunto dovrebbe essere rimosso per la gestione dell'emergenza profughi. Alfano ha confermato che lo farà. Avvio di settimana tranquilla per i mercati azionari europei in una giornata caratterizzata dalla riapertura dopo 23 giorni delle banche in Grecia. L'indice FTSE MIB ha chiuso in rialzo dell'1,1%, precedendo gli altri listini del vecchio continente grazie ai titoli del settore finanziario e si riporta così sui livelli di ottobre 2009. E adesso l'argomento che vi ho lanciato questa sera del cosiddetto patto di Renzi con gli italiani, cioè la proposta del taglio delle tasse, che però suscita polemiche anche nel PD. Fa discutere e alimenta polemiche anche all'interno del PD il taglio delle tasse promesso dal premier Renzi. È sacrosanto ridurre il carico fiscale, ma non come farebbe la destra, commenta l'ex segretario Bersani. Tagliare le tasse sulla prima casa a tutti è ingiusto perché penalizza i redditi più bassi, spiega la minoranza Dem. A fianco del governo si schiera invece il capogruppo alla Camera, Rosato. Il PD è abituato a trasformare le parole in fatti, per questo una misura straordinaria di 50 miliardi di tagli delle tasse serve per l'Italia, serve agli italiani. Abbiamo la credibilità internazionale, abbiamo la solidità, stiamo facendo le riforme. È una misura che adotteremo e la adotteremo nella legge di stabilità del prossimo anno. Le proposte del governo vanno nella giusta direzione, commenta anche il presidente di Confindustria Squinzi. Renzi è malato di annuncite, attaccano invece le opposizioni che chiedono chiarezza sulle coperture. All'appello mancano già 80 miliardi, sottolinea Brunetta di Forza Italia. Se poi a questi aggiungiamo altri 50 miliardi di euro che dovrebbero servirgli per compensare i tagli alla pressione fiscale che ha promesso, i miliardi sono 130. Sembra una presa in giro ed è una presa in giro. Non preoccupatevi che tra un paio di giorni non se ne parlerà più. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Che dite, se ne parlerà o non se ne parlerà? Sarà fattibile questo taglio delle tasse di cui parla Renzi? Vedo già i vostri messaggi, per esempio al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che scrive: toglie la TASI e mette la local tax, prestigiatore. E poi Vittorio da Corsico: se un comune virtuoso e non sperpera denaro inutilmente, della tassa sulla prima casa se ne può tranquillamente fare a meno. Voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Note, anche al 349-238-6666, mentre ci spostiamo sulla politica che riguarda la Sicilia. Il caso Crocetta: dopo 3 giorni di esilio volontario nel suo appartamento a Castel di Susa a Messina, nel pieno delle polemiche sul caso delle presunte intercettazioni del medico Tutino, il governatore della Sicilia Crocetta è rientrato a Palazzo d'Orléans, sede della presidenza della regione, per riprendere la sua attività istituzionale. E poi ci spostiamo all'estero, in Turchia, per un nuovo grave attentato che ha provocato una trentina di vittime. Continua a crescere il numero delle vittime dell'attentato che questa mattina ha insanguinato il distretto di Suruç nel sud-est della Turchia, vicino al confine siriano. Decine i morti, quasi un centinaio i feriti. Una donna di 18 anni, definita vicina all'ISIS, si sarebbe fatta esplodere, secondo quanto riportato da diverse fonti, durante un raduno dei giovani socialisti che si stavano organizzando per aiutare la ricostruzione della vicina città di Kobane, simbolo della lotta curda contro lo Stato islamico. Un video ritrae il momento dell'esplosione proprio quando un folto gruppo dei circa 300 presenti si era radunato nel giardino del centro culturale Amara. La zona di Suruç ospita uno dei più grossi campi profughi siriani, nel quale vivono almeno 35.000 rifugiati. Tutto il mondo politico turco, a partire dal presidente Erdogan in visita a Cipro, naturalmente ha condannato l'attentato. L'attacco, avvenuto in una zona curda e contro una formazione filo-curda, getta però ombre minacciose sul futuro della Turchia, al cui interno si muove un numero imprecisato di infiltrati dell'ISIS. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. E poi le relazioni tra Stati Uniti e Cuba. Oggi si è aperta un'opportunità per iniziare a lavorare per stabilire nuove relazioni bilaterali. Il governo cubano è impegnato in questo. Questo lo dice il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, chiedendo la rimozione completa dell'embargo americano contro il suo paese dopo che sono state riaperte le reciproche ambasciate. Adesso siamo di nuovo in Italia con la cronaca. Domani mattina il ministro della giustizia Orlando incontrerà il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per avere chiarimenti sul suicidio in carcere del presunto assassino del gioielliere ucciso nei giorni scorsi a Roma. Molte le polemiche anche in relazione alla carenza di organico nel carcere di Regina Coeli. Così ci ha spiegato proprio Santi Consolo, capo del DAP. Sicuramente noi abbiamo un problema di carenza di organici, perché siamo sottodimensionati rispetto alle esigenze effettive. Però se nella specie vi sono stati quei controlli con le scansioni temporali prescritte, e se purtroppo l'evento si è verificato nel lasso temporale tra un controllo e l'altro, non credo che ci sia da recriminare a carico di alcuno. Va invece considerato che noi gestiamo nei nostri istituti situazioni di gravissimo disagio personale, che è sempre più accentuato, e in relazione a questi disagi noi operiamo al meglio per cercare di prevenire situazioni gravi come quelle che si sono verificate. E poi il lutto nella moda con lo stilista Elio Fiorucci, che è stato trovato morto probabilmente a causa di un malore questa mattina nella sua abitazione a Milano di Viale Vittorio Veneto. Aveva compiuto 80 anni lo scorso 10 giugno, scompare uno degli innovatori della moda italiana e internazionale. Nella memoria resta il suo primo negozio in Galleria Passerella, in Vittorio Emanuele, aperto nel 1967. E poi ci faremo fare un ritratto da chi lo ha conosciuto personalmente. Passiamo alla sentenza della Cassazione. Per ottenere il cambio di sesso all'anagrafe non è obbligatorio l'intervento di adeguamento degli organi sessuali, lo ha stabilito la Cassazione in Italia, che ha accolto il ricorso di Rete Lanford sul caso di una persona trans che, dopo essere stata autorizzata all'intervento chirurgico, aveva poi rinunciato all'operazione ma esigeva comunque di cambiare sesso all'anagrafe. Intanto i neozelandesi, che non si sentono né maschi né femmine, sono i primi al mondo a potersi registrare come gender diverse nelle classificazioni statistiche. Per chiudere siamo allo sport. Il calcio, appena entrato nella sala conferenza della FIFA a Zurigo, Joseph Blatter è stato aggredito da un uomo che gli ha lanciato in viso una manciata di banconote false prima di essere portato via dalla sicurezza. Il presidente FIFA è poi uscito dalla sala dicendo che non si presenterà come candidato alle nuove elezioni che si svolgeranno a febbraio. Insomma, ci sembrava il gesto minimo. Per quanto riguarda il ciclismo, lo spagnolo Rubén Plaza Molina ha vinto per distacco la 16ª tappa del Tour de France, lunga 201 chilometri. Direi che per il momento la sintesi della giornata è fatta. Voi intanto state scrivendo i vostri messaggi sulla possibilità, fattibilità di tagliare le tasse come ha annunciato Renzi dal 2016, in particolare levare la tassa sulla prima casa. C'è Anna che dice: voglio pagare l'IMU, basta con la propaganda, bisogna diminuire le tasse sui redditi. Clotilde dice: il patto con gli italiani, ma noi cosa dobbiamo fare per meritarci tanta grazia? Vabbè, la solita balla di distrazione tipo le sue amabili conversazioni telefoniche. Carmen da Nicosia: tutti chiediamo chiarezza sulle coperture. Allora poi ne parleremo con un esponente del governo del PD. 349-238-6666, i vostri messaggi oppure ancora le vostre riflessioni sempre anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi abbiamo... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete sentito Renzi e il suo patto con gli italiani? Ha deciso che ci sarà un grosso taglio delle tasse a partire dal 2016 e in particolare verrà eliminata, ha detto, la tassa sulla prima casa. Qualcuno si ricorda di una promessa fatta anche da Berlusconi in questo senso, ma dal PD dicono: noi non siamo ossessionati da Berlusconi, lui l'aveva detto, noi lo faremo. Cosa ne pensate? 349-238-6666 il numero per i messaggi, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vado a leggere effettivamente qualche messaggio con Carmen che dice: le risorse, vorrei tanto sapere da dove vengono e nessuna parola sull'occupazione, o meglio la disoccupazione. Cristiano dice: alla distanza il Renzino perde terreno, i 5 Stelle e Salvini gli soffiano sul collo e lui non riesce proprio a intercettare quei voti. Alessandro: via le tasse statali per aumentare le tasse comunali, non è dando la delega fiscale ai comuni che si diminuiscono le tasse, semplicemente si evita di far parte dei cattivoni. Ne parleremo tra poco di questo argomento. Intanto vi riassumo le notizie più importanti della giornata, se avete acceso la radio in questo momento, e poi andiamo sul primo tema con il primo ospite. Rapiti 4 italiani in Libia, i 007 valutano tutte le piste e sono dipendenti dell'azienda Bonatti. Il ministro Gentiloni dice: è difficile per il momento fare delle ipotesi. Atene rimborsa la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale quei soldi ricevuti dall'Unione Europea e riapre le banche. Renzi, in contrasto con la sinistra del PD, c'è tensione anche su questa rivoluzione del fisco che ha annunciato. Migranti, c'è accordo in Unione Europea, ribasso però, solo 35.000 ricollocamenti dall'Italia e dalla Grecia, e l'Europa si dice delusa da queste cifre. E poi suicida in cella il presunto killer del gioielliere ucciso a Roma, e addio a Elio Fiorucci, l'inventore del fast style, aveva 80 anni. Primo tema allora, quello del rapimento di 4 italiani in Libia. Secondo indiscrezioni ancora non confermate dei 4 dipendenti della Bonatti di Parma, sequestrati ieri in Libia, i nomi sono già stati fatti, nel senso che sono già state avvisate le famiglie, sono Gino Tullicardo, Fausto Piano, Filippo Calcagno e Salvatore Failla. 2 sarebbero residenti in Sicilia, precisamente nella provincia di Enna e di Siracusa, 1 nella provincia di Roma e 1 nella provincia di Cagliari. Sono insomma 4 connazionali che sono stati rapiti vicino al compound, cioè al complesso della Mellita Oil and Gas, una controllata di Eni e di NOC, che sarebbe National Oil Corporation, cioè l'azienda nazionale libica, a Mellita, per l'appunto una zona strategica questa, 60 km da Tripoli, da dove parte il gasdotto Green Stream che porta il petrolio direttamente a Gela in Sicilia. I 4 cittadini sono dipendenti, dicevo, della società Bonatti, che ha sede a Parma e che fornisce in tutto il mondo servizi per l'industria petrolifera. L'unità di crisi del Ministero degli Esteri si è immediatamente attivata, naturalmente, però per il momento il ministro Gentiloni dice che è veramente difficile fare delle ipotesi, anche se la TV araba Al Jazeera aveva detto che probabilmente si trattava di milizie tribali che li avevano rapiti. Non si sa ancora se sono stati chiesti riscatti, che tipo di rapimento è, però sentiamo un passaggio del ministro Gentiloni. È assolutamente, credo, presto per fare qualunque valutazione. Il fatto è avvenuto ieri sera tardi e noi attualmente abbiamo informato le famiglie e stiamo lavorando il più possibile, perché è nostro dovere venire in soccorso di questi 4 italiani, ma non abbiamo informazioni che sia in questo momento utile divulgare. Intanto saluto Mattia Toaldo, esperto di Libia, analista dello European Council on Foreign Relations di Londra. Buonasera Toaldo. Buonasera. E grazie della disponibilità. Quindi abbiamo sentito Gentiloni. Gentiloni ha anche detto che già da quando era stata chiusa l'ambasciata italiana in Libia, il febbraio scorso, la Farnesina aveva segnalato che era molto rischioso stare in Libia, che era meglio che i nostri connazionali lasciassero il paese. Sentiamo a questo proposito ancora Gentiloni. Ma noi abbiamo detto chiaramente, dopo la chiusura dell'ambasciata, che i pericoli di instabilità dovevano indurre tutti ad abbandonare il paese. D'altra parte restano un certo numero di italiani, un certo numero più o meno equivalente di francesi, di tedeschi, dei principali paesi europei. E io confermo, come purtroppo dimostra il fatto di ieri, che è pericoloso restare in quel paese, ma dire questo non diminuisce in nulla l'assoluto impegno dello Stato per venire in soccorso a questi nostri 4 connazionali, ci mancherebbe. Certo, questo lo vogliamo immaginare, però Mattia Toaldo, che situazione c'è attualmente in Libia? Perché sappiamo, di qui abbiamo un eco di grande caos, no? E di persone che fuggono, di scafisti, di criminalità organizzata che insomma organizza le migrazioni selvagge verso le coste italiane, in senso selvagge, proprio gente buttata sui gommoni con poi spesso gli esiti drammatici che sappiamo. Ha detto bene lei, è una situazione di caos in cui si sovrappongono varie disgrazie. La prima è che c'è una guerra civile ormai in Libia dal maggio dello scorso anno. È una guerra che si è combattuta anche nella zona dove sono stati rapiti 4 italiani. Il secondo elemento è che anche in quella zona, anzi soprattutto in quella zona, c'è una forte presenza di organizzazioni criminali, sono le stesse che d'altronde caricano i barconi di migranti e di rifugiati dietro l'autocompenso. Probabilmente è dall'intreccio tra questi due fenomeni che nasce questo rapimento, quindi stiamo parlando di zone dove ci sono bande criminali che spesso sono anche bande armate di tipo politico, talvolta anche di tipo islamista. E quindi, tra l'altro, Tualdo, mi sembra che ci siano sempre due capitali, una che viene riconosciuta da due governi, cioè due centri di amministrazione della nazione, uno riconosciuto dai paesi occidentali, l'altro invece che è in mano all'ISIS, se non sbaglio, sì, o comunque conniventi. A complicare, insomma, ulteriormente la situazione, perché nel paese ci sono centinaia di milizie che si combattono, ci sono due governi, dei quali nessuno in realtà governa veramente il paese. Uno è situato a Tripoli e non è riconosciuto da nessun paese, neanche dall'Italia, e l'altro è situato a Tobruk ed è invece riconosciuto da tutti i paesi, compresa l'Italia. Nessuno dei due governi ha un vero controllo sulle strutture governative, quindi sui ministeri, oppure sulla Società Nazionale del Petrolio, per esempio, che gestisce anche l'impianto di Mellita. Ci sono alcuni pezzi del governo libico, come appunto la Società del Petrolio, che continuano a funzionare indipendentemente, ma il resto del paese sostanzialmente non è più governato, ed ecco che appunto diventa così pericoloso in aggiunta alla situazione di guerra e di criminalità di cui stavamo parlando. Tualdo, ma c'è una possibilità di riprendere in mano la situazione? In che modo in Libia? Perché si fanno tante parole, no? Però mi sembra che al momento, non so, o si sta agendo, diciamo, in sottobosco, nelle retrovie, con strategie che non conosciamo, o che cosa è possibile fare? Diciamo che nel weekend in cui avevamo tutti gli occhi puntati sul vertice sulla Grecia, e poi alla fine del weekend è arrivato anche l'annuncio dell'accordo sul nucleare iraniano, invece i libici ci hanno stupito, perché hanno firmato un accordo di pace che include quasi tutte le fazioni, purtroppo non quelle che controllano Tripoli e che controllano la zona in cui c'è stato il rapimento. Quindi qualcosa si muove. Va considerato anche che autonomamente alcune città della Libia, un po' come le città italiane del Medioevo, del Cinquecento, hanno raggiunto degli accordi di pace tra di loro, e quindi paradossalmente, per esempio, la Tripolitania, cioè la Libia occidentale, è oggi un posto un pochino più sicuro rispetto a quanto non fosse qualche mese fa, un pochino però. Sentiamo ancora che cosa ha detto Gentiloni oggi, ministro degli esteri italiano. Molte delle fazioni e delle forze che si combattono hanno siglato un accordo. Manca ancora una parte rilevante, che è la parte che ruota attorno a Tripoli, e quindi tutta l'Unione Europea sarà impegnata in questi giorni a spingere anche le persone, le milizie, i rappresentanti di Tripoli a aderire a questo processo, e anche utilizzando, se ci sarà qualcuno che lo vorrà esplicitamente e violentemente boicottare, anche utilizzando eventualmente in futuro lo strumento di sanzioni individuali. È una minaccia seria questa, Tualdo, secondo lei? Cioè l'Italia o comunque la comunità internazionale può effettivamente imporre delle sanzioni, dei deterrenti rispetto ad azioni come queste, come i rapimenti di cui stiamo parlando adesso? Che le sanzioni possano essere irrogate, sì, è una minaccia seria. L'Unione Europea ha già degli strumenti per attuarle e non è escluso che lo faccia nei prossimi giorni. Che poi questo possa spaventare queste organizzazioni criminali è tutto da vedere, nel senso che se io faccio il criminale sulla costa occidentale libica, non è detto che mi interessi il fatto che mi venga negata la possibilità di viaggiare in Italia o che vengano congelati i miei ipotetici beni in Europa. L'Europa può fare anche altro in Libia, può sostenere gli accordi di pace e poi può sostenere quelle autorità locali che invece esistono sul territorio libico, perché prima abbiamo detto di una situazione in cui il governo non c'è, però i comuni esistono soprattutto nella zona del rapimento. È interessante che la comunità del mondo arabo in Italia, Comai, chiede la liberazione di 4 prigionieri italiani in Libia, così dice un comunicato Fouad Aoudi, presidente della comunità del mondo arabo in Italia, sul rapimento dei 4 italiani. Perché se si muovono anche le comunità islamiche che ci sono in Italia, in Europa o in Occidente, Tualdo, può essere comunque un segnale intanto per, come possiamo dire, non aizzare magari, no, l'ostilità anche occidentale nei confronti dei musulmani moderati, e dall'altra può far capire che non c'è tutto questo consenso nei confronti di integralisti, agli integralisti stessi. Questo può arrivare come messaggio? Assolutamente, molto importante per tagliare l'erba su cui cresce poi l'estremismo in Libia come altrove, dimostrare che la maggior parte della popolazione, la popolazione sia araba che musulmana, non sostiene questi gruppi armati. Dopodiché non dimentichiamoci che ci sono tanti anche in Libia che affrontano queste organizzazioni criminali molto spesso a mani nude, scompaiono e noi non neanche lo sappiamo, neanche gli dedichiamo una riga sui giornali. Già. Tualdo, per chiudere, lei si sente di fare un'ipotesi su questo rapimento, da chi può essere stato attuato e come potrebbe evolvere? Ci sarà una richiesta di soldi, probabilmente dovrebbe essere questo lo scopo principale, immagino. Quello che possiamo ipotizzare è che tipo di gruppi possono aver rapito questi quattro connazionali. Appunto, quella è una zona dove ci sono molte organizzazioni criminali, ci sono molte milizie, di cui alcune hanno una matrice islamista, ed è probabile che si tratti di gruppi che sono sia l'uno che l'altro, quindi sia bande criminali che guardano al riscatto, sia bande più politiche che vogliono stabilire una forma di ricatto politico con l'Italia, che in Libia è un paese molto molto importante. E in una zona dove, come avete detto voi, ci sono installazioni energetiche cruciali per l'Italia. Grazie intanto a Mattia Tualdo. Grazie da Londra. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. Intanto vedevo i vostri messaggi che riguardano il tema che tratteremo poi dopo questa pausa. Dice un ascoltatore al 349-238-6666: tassano la prima casa per poi promettere di togliere la tassa sulla prima casa? E poi il discepolo in questo caso non supererà mai il maestro. Si immagina che il maestro possa essere in questo caso l'accusa a Renzi di parlare come Berlusconi sulle tasse. Alessandro, da Treviso, il prossimo annuncio sarà 1 milione di posti di lavoro, ci mancava il grullo parlante, già visto. Dice, e poi molti altri messaggi. In merito al taglio delle tasse sulla prima casa, dice Diego da Treviso, Renzi sa già che non verrà rieletto e lascia il regalo al successore che dovrà rimettere la tassa, tipico del PD, è stato fatto da tanti governi che sapevano di non avere futuro, e i miliardi che avanzano le aziende per i lavori fatti e non pagati per il patto di stabilità. Insomma, molte vostre considerazioni tra la pagina Facebook di Effetto Nota, il 349-238-6666, ne continuiamo a parlare dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Aveva ben ragione, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Samantha Cristoforetti, che ho fatto sentire all'inizio come copertina di questa puntata, che dicevo ho fatto fatica, oggi ha avuto il riconoscimento da parte di Mattarella, di Cavalieri del Lavoro, ho fatto fatica a riabituarmi alla pesantezza della terra, lei naturalmente lo intendeva dire in senso fisico, però davvero ritornare sulla terra fa scontrare anche con notizie come questa. È arrivata poco fa, un 17enne morto con un profondo taglio alla gola a Sant'Angelo in Vado, vicino Pesaro Urbino. Presenta questo taglio alla gola il Samuele Lulli, 17enne, trovato morto in un dirupo nei pressi di una chiesa in località San Martino in Selva Nera, frazione di Sant'Angelo in Vado. I familiari del ragazzo, studente del luogo, ne avevano denunciato ieri la scomparsa. Roberta Giordano, come sentite sempre con voi, con me i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. State continuando a scrivere moltissimo su questo patto di Renzi che vuol fare con gli italiani in cambio di riforme, tagliare le tasse, in particolare elevare quelle sulla prima casa. Tra poco continuerò a leggere i vostri messaggi, però vi ricordo intanto, se avete acceso la radio in questo momento invece che puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti. Libia, rapiti 4 italiani a Mellitah. Per il ministro Gentiloni al momento è difficile fare delle ipotesi. Migranti, accordo raggiunto dall'Unione Europea sulla redistribuzione da Italia e Grecia, ma è al ribasso, sono 35.000 invece che 40.000. Immigrazione, Renzi chiede al ministro Alfano la sostituzione del prefetto di Treviso per la gestione dell'emergenza profughi. Grecia tiene rimborsa Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale con i soldi ricevuti dall'Unione Europea, riapre le banche. Caos IVA e aumento prezzi, si temono nuovi scontri nel paese. Tasse, caccia le risorse per il taglio, in particolare di quelle sulla prima casa, con l'abolizione della TASI, 180 euro di più in tasca per gli italiani. Rapporti Stati Uniti e Cuba, inizia la nuova era, aperte le ambasciate. Moda, addio Elio Fiorucci, lo stilista che rivoluzionò la moda borghese. E poi per il ciclismo, la tappa del Tour la vince lo spagnolo Rubén Plaza, Molina Sagan ancora secondo. Nel 2016 elimineremo noi, perché gli altri hanno fatto la finta, lo hanno detto e poi lo hanno rimesso, la tassa sulla prima casa, l'IMU agricola e l'IMU sugli imbollonati. Nel 2017 interverremo sull'IRES e sull'IRAP per sostenere la competitività dell'azienda, e nel 2018, questo sì, prima della campagna elettorale, la conclusione di questo percorso con gli interventi sugli scaglioni IRPEF e sulle pensioni. mantenendo la curva del debito un po' meno forte di quello che dice il Fiscal Compact, intervenendo con 20 miliardi di euro sugli investimenti che già ci sono. Il mio impegno qui di fronte a voi è quello di fare per 5 anni un impegno di riduzione delle tasse che non ha paragoni nella storia repubblicana di questo paese. Questo è il PD che può realizzare una rivoluzione copernicana. Una rivoluzione copernicana, avete sentito, avete aperto bene le orecchie al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, perché di tassi, di taglio di tasse rivoluzionario stiamo parlando, nel senso che l'annuncio di Renzi, qui lo avete sentito all'Expo dove in questi giorni c'era l'assemblea del PD, poi ha ribadito questo concetto come proprio appunto patto con gli italiani in un'intervista al TG2 di procedere insomma a questo consistente alleggerimento della pressione fiscale sui cittadini, sentiamolo. In realtà non c'è nessuna novità, perché noi abbiamo sempre detto, se finalmente dopo tanti anni di immobilismo il Parlamento fa le riforme, per gli italiani si libera la possibilità di pagare meno lo Stato. Abbiamo iniziato con gli 80 euro, poi abbiamo proseguito con l'IRAP costo del lavoro, se le riforme andranno avanti, e io credo che andranno avanti, nel 2016 via tutte le tasse della prima casa, IMU e TASI, nel 2017 via una parte importante della tassa IRES, che è un bel colpo per gli imprenditori e per le aziende, nel 2018 scaglioni IRPEF e pensioni. È un patto che io propongo agli italiani. Se le riforme vanno avanti, noi saremo finalmente in condizione di abbassare di 50 miliardi le tasse nell'arco di 5 anni. È proprio vero? Chiedo a Filippo Taddei, che è responsabile economia e lavoro del PD. Buonasera Taddei. Buonasera a lei, radioascoltatori. Insomma, è un annuncio di una certa consistenza questo di Renzi, Taddei. Cosa fattibile? L'ho senza dubbio, ma del resto che il Partito Democratico fosse ambizioso, penso che l'avessimo già dimostrato con la riforma del lavoro e con la scorsa legge di stabilità, quindi dal mio punto di vista non è che in continuità con quello che si è fatto prima. Taddei, devo dire che a molti questa promessa, questo patto con gli italiani ha dato una sensazione molto molto evocativa, e la sentiamo questa sensazione. La prima casa è sacra, come è sacra la famiglia, per questo aboliremo l'ICI, avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra. È una decisione coraggiosa ma profondamente sentita. Siamo nel 2006 del faccia a faccia ultimo, gestito da Bruno Vespa, tra Berlusconi e Prodi, e poi le elezioni le vinse Prodi, ma fu il colpo così che fece da maestro, no? Berlusconi proprio negli sgoccioli di questo confronto, poi vabbè, ebbe una grande rimonta, ma vinse Prodi anche se non durò moltissimo. Questa volta si fa sul serio, quindi, Taddei, perché molti si chiedono, ma le coperture dove sono? Nel caso di Berlusconi, più che di colpo da maestro, parlerei di colpo di teatro. Era una dichiarazione che ricorderanno gli italiani, no? Fu l'ultima dichiarazione, chiusura del dibattito, senza nessuna possibilità per il presidente Prodi di replicare. E chiaramente sapeva in quel contesto Berlusconi che avrebbe perso le elezioni, come in effetti poi è successo. Qui io naturalmente capisco, ma l'aveva già annunciato il segretario del PD, Matteo Renzi, qua, dicendolo in occasione del discorso. So che l'IMU sulla prima casa ha questo valore simbolico, però veramente il piano è un po' più ambizioso di così. Cioè, direi che, se mi permette, l'IMU sulla prima casa in realtà è la parte residuale di questo piano, perché il cuore pulsante è fare una domanda molto semplice, che è: noi che cosa vogliamo dal nostro paese? Vogliamo che sia un luogo dove è ideale in prospettiva lavorare, che quindi ideale vuol dire che ci sono regole, certo il mercato del lavoro, ma è anche dove il fisco ha un atteggiamento premiale verso chi lavora o verso chi crea lavoro, insomma le imprese. Se vogliamo questo nostro paese, bene, allora abbiamo bisogno di fare tutto quello che è in nostro possesso per ottenere quell'obiettivo. Siamo partiti dalle regole del mercato del lavoro, la decurtazione di 80 euro, il bonus di 80 euro cosiddetto, piuttosto che la riduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato attraverso l'IRA per la decontribuzione dei neoassunti. Adesso si vuole andare avanti. Il tratto caratterizzante di questo intervento, se vuole, più che sta nel fatto che in realtà l'intervento della si è annunciato che è intenzione del governo levare l'IMU sui cosiddetti imbullonati, che era una delle tasse più, se vogliamo, assurde che avevamo fatto. Imbullonati, giusto per chiarire, vuol dire che un imprenditore che ha nel proprio capannone dei beni strumentali che sono appunto imbullonati al terreno, cioè parte integrante di quel capannone, dando valore al capannone, non facevano che aumentare l'IMU corrispondente per quel capannone. Questo è un modo per penalizzare in realtà i fattori della produzione, che è esattamente l'opposto di che vogliamo realizzare. Noi osserviamo più che 180 euro a contribuente italiano legato all'IMU prima casa, noi osserviamo che gli investimenti sono letteralmente crollati tra il 2008 e il 2013. Sono crollati di più di 4 punti di PIL, che valgono più di 65 miliardi. Ora, no, se tu hai da recuperare 4 punti di PIL di investimento ogni anno e non recuperandoli non rinnovi le tue aziende, la tua tecnologia, non metti le persone nelle condizioni di lavorare e lavorare in maniera produttiva, quindi di non poter ambire a stipendi elevati, bene, se tu non fai questo, il paese è destinato al declino. In realtà il filo rosso di tutto questo intervento, che parte dalla scorsa legge di stabilità e passa per l'abolizione dell'IMU sugli imbullonati, dell'abolizione dell'IMU agricola, poi dopo la riduzione della tassa sugli utili delle aziende, poi infine la ridefinizione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, cambiando gli scaglioni, razionalizzando questo sistema scaglioni che noi in realtà abbiamo introdotto da oramai 10 anni, tutto questo è orientato esattamente a ripristinare il primato del lavoro attraverso la rinascita degli investimenti. Anche se Taddei, forse non sono stata attenta io, ma mi manca il tassello delle coperture in tutto questo. Guardi, sulle coperture, dunque, innanzitutto il pezzo fondamentale di questa copertura, delle coperture, consiste nella revisione della spesa, però a cui vorrei dare però anche la giusta dimensione. Io sono un forte sostenitore, come ben noto, del fatto che lo Stato italiano vada efficientato e che dobbiamo rendere anche onore e giustizia alla percezione diffusa tra i cittadini italiani che la pubblica amministrazione non sia tanto efficiente quanto potrebbe essere. Per rendere giustizia a quella percezione noi dobbiamo cercare di chiedere alla pubblica amministrazione di fare le stesse cose di prima, facendole meglio, magari farne anche qualcuna in più, e però farle meglio vuol dire spendendo di meno. Ecco, per esempio, dice un ascoltatore: Matteo, l'unica cosa che vorrei sentire delle voci di spesa corrente, intende tagliarle, il resto viene da sé. Poi ci sono anche ascoltatori. In che senso, scusi, non ho capito l'osservazione? Dice la spesa corrente, intende tagliarla la spesa corrente. Lei diceva prima si ritorna alla spending review, a questo concetto della spending review. Sì, ma è come operazione corrente, cioè un'operazione in cui ogni anno noi interveniamo su quelli che sono sprechi inefficienti. Guarda, noi dobbiamo fare un accordo come cittadini italiani. O riconosciamo che la pubblica amministrazione opera fondamentalmente sulla frontiera dell'efficienza e quindi c'è poco da fare, c'è poco da risparmiare, però dobbiamo spiegare agli italiani allora che la loro percezione sull'inefficiente pubblica amministrazione italiana è sbagliata, e secondo me hanno ragione gli italiani, non quella percezione è corretta, oppure la politica deve agire conseguentemente. E agire conseguentemente vuol dire che tu guardi quelle sprechi, quelle inefficienze di cui come cittadini spesso ci lamentiamo, dell'eccellenza che esiste nella pubblica amministrazione, le correggi. Taddei, abbiamo ancora un minuto per rispondere a due cose principalmente. Allora, ci sono ascoltatori che chiedono da più parti di poter continuare a pagare l'IMU ma di avere o più servizi o di non avere le tasse sul lavoro, di averle più leggere. E poi anche c'è per esempio l'ex ministro Visco, no? Così raccolgo alcune obiezioni di alcuni ascoltatori, dice: abolire la tassa sulla prima casa è ingiusto, inaccettabile, politicamente scorretto, perché le prime case non sono tutte uguali. La mia casa, dice Visco, a Roma vale circa un milione, la villa di Arcole ne varrà 10, un appartamento in periferia vale 100-200 mila euro, e quindi non è giusto, bisogna soltanto levarla ai meno abbienti, come fece Prodi probabilmente. Lei è d'accordo? Sì, guardi, io in realtà, come ben noto, sono un grande sostenitore della riduzione delle tasse sul lavoro piuttosto che delle tasse sugli immobili. Adesso vedremo come saranno fatti i dettagli. Io le posso giusto dare un dato di riferimento, così i radioascoltatori capiscono di cosa stiamo parlando. Ci sono circa 20 milioni di famiglie italiane che sono proprietarie di casa, il che vuol dire che ci sono 20 milioni di immobili che sono prime case in questo paese, che pagano in media 350 euro di IMU all'anno. In quella media ci sono persone appunto che hanno case limitate. Se noi mettessimo quando fu messa l'esenzione a 200 euro dall'allora governo Prodi, furono esentate dal pagamento dell'IMU prima casa, quella che era ICI prima casa ai tempi, fu circa il 45% delle famiglie italiane. Ora si può naturalmente ragionare sul fatto che aumenti quella soglia anche di parecchio, portandola, non so, diciamo a 1000 euro, diciamo che tutti quelli che pagavano fino a 1000 euro di IMU, dall'anno prossimo non pagano nulla e quelli che stanno sopra pagano la differenza. Questa è una cosa che assolutamente si può fare, è oggetto di dibattito in questo momento. Io, guardi, dal mio punto di vista, io sono sempre quello che mette in cima la riduzione delle tasse sul lavoro, quindi non potrei essere più d'accordo, però dico con assoluta tranquillità che se si vuole fare anche un investimento per la riduzione del carico fiscale sulla prima casa, e questa è la sensibilità del Presidente del Consiglio, quell'investimento è compatibile, anzi deve essere compatibile con una riduzione che continua nel tempo, esattamente come ci siamo impegnati a fare, di tutto quello che è il gravame, le tasse che gravano sul lavoro. Quindi questa sulla prima casa è un intervento che si aggiunge, non sottrae. Aspettiamo, quello che era il percorso. Aspettiamo allora quel momento a partire dal 2016. Intanto grazie Filippo Taddei. Grazie, buona serata. Buonasera. Molti altri messaggi. Mauri da Luca: per far pagare meno tasse il governo si dovrebbe impegnare veramente a far pagare a tutti, sono tanti gli evasori. Questo è un altro bel dibattito, però intanto c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo le più importanti brevemente. Con i quattro italiani, quattro tecnici rapiti in Libia, i 007 valutano tutte le piste, per il momento è difficile fare delle ipotesi. Atene che rimborsa Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale con i soldi ricevuti dall'Unione Europea, riapre le banche, ma adesso c'è il caos IVA, aumento prezzi e si temono nuovi scontri nel paese. Poi abbiamo appena parlato della tensione tra Renzi e la sinistra del PD su questa rivoluzione fiscale che Renzi intende fare, togliendo prima di tutto la tassa sulla prima casa dal 2016. Poi migranti, l'accordo europeo di cui parleremo tra pochissimo. Europa 24 notte. Sapete che era atteso da tempo un summit europeo, se ne erano fatti diversi, ma in cui si decidesse una volta per tutte sui migranti, come potesse avvenire la redistribuzione, soprattutto da paesi come l'Italia e la Grecia, che sono gli avamposti dove per lo più arrivano i migranti. Bene, si è arrivati per il momento a una conclusione, perché poi pare che questo summit si dovrebbe rinnovare e i ministri rincontrare tra 6 mesi. L'esito è questo, che si è arrivati a 35.000 ricollocamenti come numero su cui accordarsi, anche se è a ribasso, perché si era parlato nel recente passato di 40.000. Ne parliamo con Matteo Villa, che è ricercatore ISPI per l'area Europa, l'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Matteo Villa. Buonasera a lei, buonasera a voi. Allora, il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos ha detto: sono deluso da queste cifre, ma già un risultato. Il ministro Alfano ha detto: un passo avanti, il primo anno per l'Italia è coperto, mentre Pittella del Consiglio europeo, che è presidente dei socialisti e democratici del gruppo dell'Europarlamento, ha detto: è un risultato ridicolo, serve un meccanismo permanente per andare oltre questo sistema e oltre l'accordo di Dublino. Chi ha ragione? Hanno ragione forse tutti, non ha ragione nessuno, perché il risultato, viste le aspettative ormai degli ultimi mesi, sulla carta è buono, ovvero è vero che l'Italia, la Grecia e tutti portano a casa 32.000, meno di 35, dei 40.000 migranti di cui parlava la Commissione, da rilocare dall'Italia alla Grecia agli altri paesi dell'Unione Europea, ma vista la crisi greca e vista l'attenzione di tutti era da quella parte, sinceramente io non mi attendevo neanche che si arrivasse a questa cifra, quindi per adesso io direi che il risultato è abbastanza buono. Inoltre tra 6 mesi si ritornerà a parlare degli ultimi 8.000 che mancano da rilocare. Detto questo, ci sono tutti i caveat, e probabilmente ha ragione Pittella, è un risultato che delude molto l'Italia. Primo, perché la rilocazione non comincerà prima di ottobre, e questo è già un limite, perché se ci ricordiamo l'anno scorso a ottobre in Italia erano arrivate 150.000 persone, ora quest'anno siamo 85.000, che è più o meno in linea con il trend dell'anno scorso, vuol dire che ne arriveranno altre 150.000. È chiaro che sia un trend che sembra mantenersi nel tempo e prendere soltanto, ricordiamo che dall'Italia se ne prenderebbero soltanto 24.000 in 2 anni, quindi 12.000 all'anno, è un risultato molto basso. Inoltre da ottobre, cosa vuol dire? Che l'Italia per questi mesi di emergenza si era fatto il vertice per rispondere all'emergenza, farà comunque da sola. Tra l'altro, secondo me è importante notare anche una cosa sui numeri, ovvero che dei 12.000 che l'Italia riuscirà a riallocare negli altri paesi europei, sì, è un risultato interessante, però è un risultato che, se guardiamo quello che facevamo l'anno scorso, ovviamente illegalmente, però rispetto alla Convenzione di Dublino, che richiede che quando arriva un migrante si registri là dove è arrivato, sulla costa del paese d'arrivo. Però noi avevamo avuto 165.000 arrivi l'anno scorso, di questi si stima che quasi la metà prima di registrarsi si è andata in un altro paese UE. Cosa vuol dire? 80.000 persone che sono partite, sono fuggite, chissà se con il beneplasto delle autorità italiane, in parte, e in questo modo noi sottacevamo tutto, ma 80.000 persone le riallocavamo negli altri paesi che non erano molto felici. In questo caso ne riusciamo a riallocare 12.000, però l'UE ci chiede in cambio di stare attenti, creare degli hotspot sul nostro territorio, la Commissione verrà a controllarci, prendiamo le impronte. Non credo che degli 80.000 che riusciremo a raggiungere il numero di fuggitivi dell'anno scorso, quindi è probabile che per l'Italia il carico aumenti, non diminuisca. Grazie Matteo Villa. Di niente. Grazie, buona serata. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ora invece con Paola Bottelli, giornalista del Sole 24 ore, che saluto. Ciao Paola. Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Vorrei parlare di Elio Fiorucci, che è stato stilista, imprenditore, ma sicuramente una personalità eclettica, originale, definito l'hippie della moda, visto che tu l'hai conosciuto anche personalmente, Paola. Sì, anche molto bene, l'ho conosciuto e lo conosco, l'ho visto, è stato anche tra l'altro ospite da noi alla nostra business school. Ma Elio Fiorucci è un innovatore, è un uomo che alla fine degli anni 60 ha inventato quello che adesso si chiamerebbe il concept store, un negozio che in Galleria Passarella a Milano, Piazza San Babila, ha stracciato tutti i canoni precedenti relativi alla moda, quindi vetrine coloratissime, senza manichini, con i vestitini eleganti. Una specie di paese dei balocchi era, no? Quando sì, si passava lì davanti. Sì, jeans attillatissimi, cosine carine da regalare, t-shirt che non erano più bianche immacolate, ma avevano gli angioletti, i graffiti, e che aveva aperto una serie di negozi in giro per il mondo ed era diventato il creatore di quello che, altra parola inglese che usiamo adesso, lo street style, cioè un modo di vestirsi contaminato, molto più divertente e fuori dai canoni tradizionali rispetto a quello che usava fino a quel momento. Moda democratica era definita la sua anche? Sì, direi di sì, ma soprattutto era una moda gioiosa, come era gioioso lui, una persona tra l'altro molto dolce e sensibile. È sempre stato, ha continuato a essere stimato e rispettato in tutto l'ambiente, ancora invitato in tutte le scuole di moda, i master a raccontare la sua esperienza, anche se in realtà poi lui nel 90 era finito in concordato preventivo, perché tanto era geniale dal punto di vista creativo e della comunicazione in un'epoca in cui il web non esisteva, non esisteva Facebook per raccontare e raccontarsi, tanto non era particolarmente brillante nella gestione dell'azienda come tanti altri suoi colleghi nel mondo dello stile, e quindi aveva ceduto il tribunale, aveva ceduto con il concordato, per concordato preventivo, il marchio dei giapponesi della Edwin, che hanno comunque portato avanti questo marchio che è tuttora sul mercato. Lui si era lanciato un suo marchio, Lab Therapy by Elio Fiorucci, con il quale aveva avuto un certo successo più recentemente. Sì. Grazie Paola Bottelli, grazie di questo grazie ricordo. A voi. Ciao Paola, noi ci risentiamo alle 22.00.